in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24. Oggi i quotidiani, come potete immaginare, sono tutti dominati da questa apertura su quello che è successo ieri, e da una parte la grande manifestazione della CGIL a Roma e dall'altra la Leopolda organizzata dal PD di Renzi a Firenze. Moltissimi commenti sul doppio PD, possiamo dire così, o sulla doppia sinistra in piazza, si sono esercitati moltissimi, ne vedremo alcuni. Ma cominciamo allora dal Corriere della Sera, che titola CGIL in piazza, Renzi va avanti. Il riferimento credo sia impossibile per chiunque di noi non aver sentito, insomma, alcuni degli slogan e soprattutto questa frase di Renzi: bella la piazza di Roma, ma noi andiamo avanti. E appunto gli slogan da una parte e dall'altra li abbiamo sentiti riecheggiare nei GR, nei radiogiornali, come quello che avete sentito, e poi sicuramente ne sentiremo ancora parlare. Ma appunto, quindi, vi dicevo, più che la cronaca, magari vi segnalo qualche commento, qualche interpretazione. Ma soprattutto vi segnalo la fotonotizia, che anche in questo caso è comune praticamente a tutti i giornali, e riguarda l'impiccagione di Reina Jabari, la donna che si è difesa dall'uomo che voleva stuprarla colpendolo a morte in testa e che è stata ieri impiccata in una prigione di Teheran. Impiccata per aver ucciso chi voleva stuprarla, la foto di profilo di appunto Reina Jabari sul Corriere della Sera, l'articolo di Pierluigi Battista, e continua, lo trovate poi a pagina 13, Reina e l'eclissi dei diritti umani. Vi dicevo dei commenti alle manifestazioni di ieri sul Corriere di Aldo Cazzullo, vi leggo le prime righe e le ultime righe. Due epoche, i mondi paralleli della sinistra, paralleli quindi destinati implicitamente a non incontrarsi, questo è il senso del titolo. E l'articolo inizia così: la sinistra del futuro è il mungitore sikh con bandiera rossa o Fabio Volo con telecamera? Naturalmente il mungitore sikh, nell'idea di Cazzullo, era a Roma, forse c'era davvero, mentre Fabio Volo, lo sappiamo perché lo abbiamo visto, sicuramente non è uno che scappa dalle telecamere, era invece a Firenze. E allora scrive Aldo Cazzullo: i precari dei trasporti o il finanziere Serra che propone di impedire loro di scioperare? I tipografi dell'Unità con la foto degli occhiali rotti di Gramsci o i nuovi alfieri del Made in Italy, Bertelli, Farinetti, Cucinelli? Come sempre, i primi a Roma, i secondi a Firenze. E conclude Aldo Cazzullo: alla fine si è andati o di qua o di là, nessuno ha osato farsi vedere sia al corteo sia a Firenze, neppure l'ex segretario del sindacato e del partito Epifani. Lo ricorderete, appunto, Guglielmo Epifani è stato sia segretario della CGIL sia segretario del PD e non era ieri né a Roma non ha fatto entrambe le scelte, ma è andato a Roma, come forse sembra naturale a ciascuno di noi, ma non tanto ad Aldo Cazzullo, che però riporta le sue parole: ho scelto Roma, non ce la faccio ad andare alla Leopolda, che comunque considero interessante. Il problema è come il PD possa tenerla insieme con una piazza in cui la maggioranza l'ha votato. Chiuse le virgolette, conclude Cazzullo, un problema irrisolvibile. Non è come quando i ministri comunisti di Prodi protestavano contro il loro stesso governo, quella fu una contraddizione, un'astuzia subito punita dagli elettori. Ora ci sono due mondi separati che non si riconoscono e non si appartengono più. Non so, aggiungo e speriamo che non sia così, perché naturalmente la scissione di quello che in questo momento è il partito più importante in Italia forse non è così auspicabile, o forse sì, non lo so, naturalmente ognuno su questo ha la sua idea. Ma vediamo la Repubblica, che titola un milione con la CGIL sarà sciopero, e poi cita questa frase che appunto vi ho detto anche prima: Renzi, bella piazza ma vado avanti. Moltissimi commenti anche in questo caso. L'analisi di Concita De Gregorio, il duello a distanza delle due sinistre, che è un po', insomma, simile al commento di Cazzullo, questo doppio binario che hanno un po' rilevato tutti. Concita De Gregorio in particolare sceglie un'immagine, paragona la festa di Firenze a una festa di matrimonio dove naturalmente lo sposo era Renzi, e come fuori ci sarebbe stato, sempre secondo questa immagine di Concita De Gregorio, invece il banchetto di chi protesta a distanza di molti chilometri, un'ora e mezza di treno, ma naturalmente, scrive Concita De Gregorio, usando lo streaming in realtà le due cose sono sembrate in contemporanea. La fotonotizia anche in questo caso è dedicata all'esecuzione di Reinae Jabari, l'Iran senza pietà, impiccata Reinae. In questo caso l'articolo è di Ivanna Vannuccini, lo trovate a pagina 14. E a proposito di Ebola, invece, una delle questioni di cui abbiamo tanto parlato nei giorni scorsi, ora il bilancio dei morti è, rispetto all'estate è quasi triplicato, siamo a 10.000 e Carlo Verdelli ci racconta le pagine 22 e 23, poi lo vedremo se c'è tempo, un viaggio all'interno dell'ospedale Sacco, che è l'ospedale di Milano meglio attrezzato per curare chi eventualmente contraesse il virus o comunque continuare gli studi sul vaccino e magari anche vedere, diagnosticare il virus a chi magari viene messo in quarantena, perché sapete che finché la malattia non si manifesta, i sintomi sono facilmente si possono facilmente confondere con quelli di un'influenza o di qualsiasi altra malattia che come sintomo principale abbia la febbre. E quindi questa storia, appunto, nella trincea italiana che combatte Ebola, il vero nemico è il virus della paura, spiega Giuliano Rizzardini, che è il medico dell'ospedale Sacco con cui Carlo Verdelli ha parlato. Veniamo al Sole 24 Ore, perché in questo caso il titolo principale è dedicato, poi subito sotto c'è quello su Renzi e CGIL sfida sul lavoro, ma il titolo principale è dedicato alle banche italiane, agli stress test, anche questo l'avete sentito nel GR, oggi è il D-Day delle banche, come lo definisce il Sole 24 Ore, questi stress test fatti per capire quanto le banche siano vulnerabili in questo momento, ma soprattutto se dovessero esserci ulteriori shock, fare i BCE su 9 banche italiane. Ci saranno appunto oggi le comunicazioni di quella che è definita Eurotower, cioè la Banca Centrale Europea. Ieri intanto c'è stato un consiglio straordinario di Montepaschi, perché Montepaschi e Carige sono le due banche che sono un po' quelle che si aspettano un esito negativo da questi stress test. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore, come ogni domenica, trovate l'inizio dell'intervento dell'arcivescovo Bruno Forte, che è arcivescovo di Chieti Vasto. Questa domenica si intitola L'appello di Francesco, credete nella famiglia, poi lo trovate a pagina 20. Sempre come ogni domenica, anche la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, dove il nostro collega di finanza si concentra su un titolo quotato per spiegare perché conviene o non conviene investire su questo titolo ai normali piccoli risparmiatori. Oggi la scelta è di Succer, sapete la società che analizza i bilanci. Cerved diversifica, focus su gestione dei crediti dubbi e sul business dei rating. Dalla prima pagina della stampa, come la maggior parte degli altri giornali, CGIL ora sciopero contro Renzi. Questa è stata un'altra delle frasi di Susanna Camusso, segretaria generale della CGIL. E la fotonotizia anche qui è una foto di Rainer Jabari, questa volta non di profilo, ma mentre parlava in tribunale, si cercava di difendersi. Quindi Rainer Jabari davanti alla corte, che l'ha condannata a morte. Aveva solo 26 anni ed era in carcere dal 2007. Poi vi segnalo, anche qui, se avremo tempo, ne leggiamo una parte: un'intervista di Elena Löwenthal ad Amos Oz, il grande scrittore israeliano. È uscito 4 giorni fa il suo ultimo libro, che è un romanzo, e si intitola Giuda. È una figura che mi ha sempre attratto, scrive il virgolettato che la stampa usa per titolare l'intervista. Scambia mentre gli altri temono il cambiamento. Essere chiamato Giuda, cioè traditore, così è per me una medaglia. La prima pagina del Messaggero, le due sinistre allo scontro, anche in questo caso un richiamo alla vicenda di Rainè. Poi la fotonotizia invece è dedicata alla Roma, che ieri, sapete, ha pareggiato con la Sampdoria, perdendo un po' forse un'occasione di raggiungere la Juventus in classifica, la Juventus che invece gioca oggi. L'Avvenire dedica il titolo di apertura al Papa, oltre alla cultura del provvisorio, e ancora l'intervento di Papa Francesco sulla famiglia. E poi, come sempre dico, l'Avvenire si occupa di questioni che molti altri giornali o l'informazione in generale dimentica. C'è un reportage da Gaza, reportage della Striscia dopo la guerra. Gaza vuole rinascere dalle macerie, è di Giorgio Ferrari. E poi un intervento sulla vicenda della donna uccisa in Iran. Magari dopo ne leggiamo una parte. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e ne approfitto per rispondere a un ascoltatore che scrive un SMS dicendo che ci occupiamo solo delle grandi squadre, non facciamo vera informazione sportiva. In realtà, e dice, non avete dato i risultati degli altri anticipi, ma solo quello della Roma. In realtà io non volevo fare informazione sportiva nel vero senso della parola, ma solo segnalare la fotonotizia sul Messaggero. In ogni caso, appunto, la partita di ieri, Sampdoria-Roma, che è finita 0-0, era uno dei tre anticipi di ieri. Gli altri erano Empoli Cagliari, che è finita 4-0 per il Cagliari, e Parma-Sassuolo, che è finita 3-1 per il Sassuolo. Oggi tutte le altre partite. La prima pagina dell'Avvenire che vi ho citato, appunto, invece una fotonotizia dedicata a Gaza, con questo bel reportage che spiega cosa sta succedendo nella striscia di Gaza dopo la guerra dell'estate, e poi l'editoriale di Riccardo Redaelli sulla vicenda di Rayaneh Jabari, la ragazza di 26 anni che era in carcere dal 2007 per aver ucciso l'uomo che aveva cercato di violentarla e che ieri è stata impiccata. Ma vediamo la prima pagina della Padania, un titolo molto forte: razzismo di Stato, con due foto. Da una parte un signore in carrozzella che attraversa sulle strisce pedonali, sotto la scritta meno 100 milioni di euro, e dall'altra una foto scattata su un barcone di migranti con scritto più 187,5 milioni di euro. Il riferimento è a una vicenda sicuramente dolorosa, che è quella del taglio al fondo per la disabilità, e purtroppo questo taglio fa parte dei tanti tagli contenuti nella legge di stabilità. E poi però invece la cifra positiva è riferita allo stanziamento di 187,5 milioni al fondo immigrati. E naturalmente la perplessità, anche la contrarietà della Lega, l'abbiamo vista anche settimana scorsa nella manifestazione di Milano, appunto, che è nettamente contraria a questi fondi stanziati per fronteggiare l'emergenza immigrazione. Il Giornale, scissione di fatto, bella ciao PD, questo è il titolo, un milione di vetero comunisti in piazza, renziani in televisione, quindi anche qui naturalmente titoli molto forti e sicuramente molto di parte, anche molto tranchant, ecco, possiamo dire così. I democratici si scannano come nemici, così scrive il Giornale. E ha tra l'altro poi una fotonotizia invece diversa da quella degli altri giornali, dedicata ad Antonio De Magistris, che sarebbe il cugino del sindaco il sindaco sospeso di Napoli, Luigi De Magistris, e scrive, siccome è di Forza Italia, il Giornale scrive: il cugino di Gigino sta dalla parte giusta, letteralmente, senza virgolette, giusta, cioè la parte giusta è Forza Italia e l'altra parte è sbagliata. Quindi questa contrapposizione noi contro voi, che è un po', se vogliamo, quella anche di altri partiti, che non so se faccia bene all'Italia in generale e alla politica. Libero ha un titolo quasi identico a quello del Giornale: c'era una volta al PD, però in questo caso non Bella Ciao, che è il titolo naturalmente di una canzone partigiana, ma Bello Ciao, che è il Bello Ciao, e sarebbe quello naturalmente detto dalla Camusso a distanza, diciamo, da Roma a Matteo Renzi, che invece era a Firenze alla Leopolda. In questo caso l'articolo è di Maurizio Belpietro, direttore di Libero, e il sommario: tra la piazza della CGIL contro il governo e la Leopolda di Renzi si consuma uno strappo insanabile. Il premier va avanti con manager e finanzieri nel suo progetto di scalare l'Italia. Questo articolo è illustrato da un disegno di Benny, che è il caricaturista di Libero, e c'è appunto Renzi che è una scala e sali i gradini, in mezzo alla scala c'è la Camusso con una sega che cerca di segare appunto questa scala. Il riferimento naturalmente è alla frase di Renzi dell'altro ieri, quando disse: nel 2011 mi resi conto che l'Italia era scalabile. Scalabile è un termine che si usa in generale in finanza per quando un'azienda, per quanto quotata, ha un flottante sul mercato, o comunque quota in mano a persone che si capisce, si intuisce, o i ben informati sanno che vogliono vendere queste quote. Quindi si dice scalabile perché, partendo dall'acquisto di una quota, chi vuole acquisire il controllo di quell'azienda può farlo, appunto, può scalare quell'azienda cominciando dalle quote che sono in vendita. Il Fatto Quotidiano ha invece a sua volta un titolo abbastanza forte, anche se forse un po' meno forte di quello del Giornale di Libero, che è: CGIL un milione in piazza, il nemico è Renzi. La foto è appunto delle tante bandiere rosse che si sono viste ieri in piazza, un po' questa idea che troverete anche negli articoli, nei commenti. Da una parte c'era il rosso della piazza di Roma, e a Firenze invece tutti in camicia bianca. Sapete che Renzi ha lanciato un po' questa moda di mettere appunto queste camicie bianche, spesso senza cravatta. L'editoriale è come sempre di Marco Travaglio e si intitola Piccoli Leopoldi crescono, e anche in questo caso, come potete immaginare, molto molto polemico. Il Manifesto Manifesto, anche il Manifesto ha una foto della piazza di ieri di Roma, il titolo è Gli straordinari e l'editoriale di Norma Rangeri, Il capitale della sinistra. Vi leggo solo le ultime righe, possiamo sbagliarci, ma vendendo il corteo ci siamo convinti che una sinistra di popolo consapevole, fortificata dalla capacità di resistere alla durissima prova della crisi, ha ripreso pienamente il suo diritto di cittadinanza. Veniamo alle pagine interne dei quotidiani, vi segnalo un'intervista al presidente delle Ferrovie dello Stato, Marcello Messori, che fa un passo indietro e racconta a Daniele Manca, a pagina 6 del Corriere della Sera, perché ha riconsegnato le deleghe. Sostanzialmente si sentiva un po', posso riassumere così l'intervista, sentiva di avere molte cose da fare ma pochi poteri per farle e quindi ha deciso di appunto rimettere le deleghe. Poche chiarezze sulla privatizzazione, una società così grande ha bisogno di ruoli ben definiti. Dal Corriere vi segnalo anche un approfondimento sull'Ucraina, perché oggi in Ucraina si vota e con tutto quello che è successo negli ultimi mesi è sicuramente un'elezione importante. E così Giuseppe Sarcina da Kiev ci racconta: oligarchi, falchi ed eroi di guerre stellari, l'Ucraina divisa, vota all'ombra di Putin, perché la foto è quella di appunto un attivista vestito da Darth Vader che ieri faceva propaganda in piazza. In realtà la foto è molto divertente perché c'è un bambino in carrozzina che è chiaramente spaventato da questo Darth Vader, perché ovviamente lui non sa che cosa probabilmente vuole dire ai suoi genitori, speriamo, se era un attivista politico e non al bambino che sicuramente non vota. Dalle pagine di Repubblica un'intervista a Davide Serra, sapete il finanziere, il fondatore, il capo di Algebri su un fondo di private equity, ha partecipato anche ad altre Leopolde. Chi ascolta Radio 24 forse l'ho anche sentito, io ho sentito un paio di volte intervenire a Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Ieri ha fatto un'uscita che ha sicuramente suscitato molte polemiche, anche perché poi vengono sempre riportate le parole un po' estrapolate dal contesto. Comunque si è espresso contro gli scioperi selvaggi che a volte ci sono in Italia. Serra attacca lo sciopero e ha tra l'altro attaccato anche la CGIL, però ha annunciato anche l'iscrizione al Partito Democratico. Questa convention mi piace, ha detto, non è di sinistra né di destra. Vi segnalavo alle pagine 22 e 23 il reportage di Carlo Verdelli dall'ospedale Sacco, nella trincea italiana che combatte l'Ebola, ma abbiamo appunto, come dicono i medici del Sacco, il vero nemico è la paura, il virus è la paura. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalo un articolo sull'Ilva, un altro caso di cui si è parlato tanto, ma poi abbiamo un po' smesso di seguire questa vicenda. Non il Sole 24 Ore, che con Domenico Palmiotti da Taranto ci racconta come appunto vada avanti la vicenda della grande acciaieria che è a rischio chiusura per via di una serie di leggi che sarebbero state violate. All'Ilva commessi ancora crimini, il GIP Todisco ha scritto alla Procura: l'attività criminosa non si è mai interrotta, evidente lesioni alla salute soprattutto degli operai e delle persone che lavorano, che lavorano e vivono intorno alle acciaierie e anche naturalmente all'ambiente. E poi c'è un altro articolo, un approfondimento sui fondi che sono stati stanziati per le bonifiche. Dalla prima pagina del dorso di Finanza e Mercati, un approfondimento sulle IPO, gli Initial Public Offerings, cioè i debutti in borsa. Dovevano essercene parecchi prima della fine dell'anno, ma piano piano si stanno un po' ritirando tutti, citando naturalmente le avverse condizioni di mercato. Quindi il titolo: anche OVS congela l'offerta. OVS, il gruppo che controlla, oltre alla catena OVS, anche la catena Coin e la catena Upim. Nuovo stop, ci spiegano Monica D'Ascenzo e Carlo Festa, dopo che erano già arrivate le rinunce di Fedrigoni, la cartiera Intercos, che è un'azienda attiva nella produzione di cosmetici, e della internet company Italia Online. Dalle pagine interne della stampa vi segnalo invece un altro approfondimento dall'estero, perché oggi si vota anche in Tunisia, ce lo racconta Domenico Quirico. Sulla primavera di Tunisi incombe l'onda islamista. Infatti proprio a Tunisi iniziarono, lo ricorderete, le rivolte arabe, ma ora gli estremisti hanno ripreso forza e sono sempre più forti. Vi segnalo anche un articolo che inizia sulla prima pagina della stampa, e l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi prima della pausa sul traffico è un approfondimento a cura di Stefano Rizzato e poi di Marco Politi su quella che viene definita l'economia un po' del prestito, meglio usare che possedere, i trentenni cambiano i consumi, viaggi e soggiorni al risparmio, no al lusso, sì al noleggio e all'high tech. La generazione nata dopo il 1980 ha un rapporto tutto nuovo con con il denaro. Questi giovani, appunto nati dopo il 1980, vengono chiamati millennials oppure generazione Y, e che sono sostanzialmente dei trentenni che appunto spesso non hanno uno stipendio fisso, magari hanno fatto l'Erasmus, hanno visto come si fanno le cose negli altri paesi e usano appunto soprattutto tutte queste forme di economia cosiddetta anche collaborativa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio 24 per l'ultima parte. Eravamo nelle pagine interne dei quotidiani e vi segnalo ancora in particolare da Libero un'intervista di Barbara Romano a Rosi Bindi. Abbiamo visto come tutti parlino di questo doppio PD o comunque doppia sinistra in piazza, da una parte a Roma ieri con la CGIL, poi alla Leopolda con Firenze, come molti continuino a paventare o a prevedere una scissione all'interno del PD. Siccome Rosi Bindi è appunto rappresenta la vecchia guardia del PD, Barbara Romano l'ha intervistata, è un'intervista durissima che sicuramente dà ragione a chi dice che potrebbe esserci una scissione, anche se poi Rosi Bindi è una e vedremo se ha dietro di sé tante persone da portare a questa scissione. Il titolo dell'intervista è "Matteo è cinico e arrogante, la Leopolda non c'entra col PD". Infatti la Bindi ieri è andata al corteo della CGIL, non era la sola esponente di spicco del PD a essere. Vi leggo due domande che mi hanno fatto molta impressione, perché sicuramente danno l'idea che di una posizione molto forte e sicuramente antagonista al segretario del PD. Chiede Barbara Romano: ce l'ha con Renzi perché ha cercato di rottamarla? No, l'idea è l'idea che è sbagliata. Le generazioni si passano il testimone, chi lo passa non lo deve trattenere, ma chi lo prende non lo deve strappare. Un'altra domanda: ce l'avrà pure una qualità quest'uomo, cioè Renzi? E la Bindi risponde: la straordinaria capacità di interpretare il tempo in cui viviamo e di capire il sentire degli italiani di oggi, sommato alla sua velocità in tutto. E aggiungo io che una generalizzazione del genere è veramente incredibile, perché gli italiani di oggi, chissà che cosa vuol dire la velocità in tutto. Questo sicuramente Renzi è uno molto veloce. E ancora, è il suo peggior difetto di Renzi? Il cinismo e l'arroganza, che lui stesso rivendica con orgoglio. Non credo di aver mai sentito anche qua, scusatemi, ma è che veramente è un'intervista, è così, leggere solo questa credo che sia così, che nuocia così tanto al dialogo che io e credo tanti altri continuiamo ad auspicare, che mi fanno veramente effetto queste risposte, appunto perché io non ho mai sentito Matteo Renzi rivendicare con orgoglio cinismo e arroganza. Però così dice Rosi Bindi, che poi aggiunge: Renzi sembra disposto a tutto pur di vincere, questo interpretare la politica come gestione del potere in quanto tale è un modo di essere in cui io non mi riconosco. Lo dico molto laicamente, qui non si tratta di distinguere la politica buona da quella cattiva, è la politica in sé che ha gli antipodi dal cinismo, perché va intesa come un servizio alla comunità, non all'ambizione di qualcuno. E vabbè, questa è Rosi Bindi. Passiamo alle pagine culturali e naturalmente iniziamo dalla Domenica del Sole 24 Ore, anche se poi si può fare di Alessio Maurizi, avrete anche il collegamento con il responsabile della Domenica, Armando Massarenti, quindi vi cito come sempre il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola "Condannare e capire". La citazione da cui parte Gianfranco Ravasi è di un sapiente cinese del IV secolo a.C., Chuang Tzu, che tra le molte cose che ha lasciato dette, scritte, c'è questa: non c'è niente di più facile che condannare un malvagio, niente di più difficile che capirlo. E scrive Ravasi: siamo d'accordo che un certo buonismo può alla fine approdare alla deriva dell'ingiustizia. Ogni giustificazionismo eccessivo allenta la tensione etica generale. Tuttavia, in agguato c'è anche il rischio di un giustizialismo implacabile, che peraltro a parole sembra dedicarsi ai potenti corrotti, ma che in realtà si sfoga poi sui poveracci. Ruba un pezzo di legno e ti chiamano ladro. Ruba un regno e ti acclamano re. Ironizzava il sapiente cinese Chuang Tzu. Ebbene, al giusto giudizio del male si deve accompagnare anche lo sforzo di comprensione nei confronti del colpevole. Come ammonisce, scusatemi, la citazione iniziale era di Dostoevskij, mentre questa, quella che abbiamo appunto appena letto, era di Chuang Tzu. Sono stato invitato in passato, scrive Ravasi, a varcare le soglie di certe nostre carceri. Quando si è davanti a quei volti, in spazi e atmosfere degradanti, cadono tanti pregiudizi. Ci si mette ad ascoltare storie umane e alla fine echeggia nella mente la voce di Cristo: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, dal Vangelo di Luca. il memorandum di Roberto Napoletano, la rubrica sulla prima pagina della domenica, è invece dedicata all'incontro che c'è stato tra, diciamo, la comunità cinese e soprattutto economica che è venuta a Milano per incontrare in occasione del vertice tra Europa e Asia, e ha fatto tanti incontri, tra cui uno al Politecnico, a cui ha assistito anche il nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, che conclude: l'allargamento al mercato cinese può essere per l'Italia di oggi quello che fu per l'Italia di ieri l'allargamento al mercato europeo americano. Nelle aule del Politecnico di Milano ce n'era piena consapevolezza e si respirava l'aria giusta. Non bastano, ma almeno partiamo con il piede giusto. Dicevo, insomma, del domenicale sentirete ampiamente parlare, poi Si può fare. Allora cito anche gli altri supplementi che trovate in edicola oggi: la lettura del Corriere della Sera, la copertina come sempre affidata a un artista, oggi è dell'artista americana Nancy Goldring, e poi all'interno, alle pagine 2 e 3, un bell'articolo di Alessandro Piperno dedicato allo stile di oggi dei romanzi, che lui definisce lo stile imperfetto. Forse siamo tutti Shakespeare, scrive Alessandro Piperno, è oltre che scrivere per il Corriere della Sera, è uno scrittore, ma alcuni lo sono più degli altri. Ecco come si forma il carattere letterario: i segreti dei Queen, di Maradona e di Flaubert, la rivelazione, l'uso del plurale e di un tempo verbale molto ardito. E un po' quindi il tema, sempre scritto come può scriverlo uno scrittore, affrontato con anche una certa autoironia, di se ci sono dei trucchi, o individuare perché certi scrittori vengono a posteriori o anche magari dai loro stessi contemporanei considerati dei geni e altri no, non naturalmente solo usando il criterio di chi vende di più. Ma vi segnalo poi, visto che abbiamo parlato tanto di Iran, una recensione al libro La signora Melograno di Goli Taraghi, che è una scrittrice iraniana. Un'iraniana a Parigi, ma la sua lingua no. La vera opposizione a Teheran, ci racconta questa ragazza, i balli delle ragazze. E tra l'altro su Repubblica trovate anche un'intervista a un'altra scrittrice, Azar Nafisi, che aveva scritto anni fa il bestseller Leggere Lolita a Teheran. Quindi ci sono in questo libro sette racconti, è un libro di racconti che, se non altro, ci aiutano un po' a capire la società iraniana. Il supplemento della Repubblica, invece, un lungo articolo di Emanuela Audisi un'intervista, un articolo più intervista a George Foreman, che 40 anni fa incontrava Muhammad Ali, allora Cassius Clay, perse, e però racconta a Emanuela Audisio oggi: 40 anni dopo lo storico incontro, intervista al campione che perse tutto, vi dico perché quel KO mi ha salvato. Un divertentissimo approfondimento di Gabriele Romagnoli sugli spoiler, cioè sapete quell'abitudine di spoil in inglese vuol dire rovinare, quando qualcuno ti racconta la fine di qualcosa, la fine di un film, la fine di un libro, e come su internet spesso c'è spoiler alert, cioè sappiate che se leggete questo tweet, questo post su Facebook o questo articolo, vi rovinerà il finale, perché vi racconto come finisce. Quindi l'articolo di Gabriele Romagnoli, non dirmi come va a finire. Poi vi segnalo, sempre da Repubblica, la rubrica di Walter Siti, ogni domenica un poeta, oggi Sandro Penna, Senza tetto né legge, la solitudine di Penna. La copertina di Alias del Manifesto è dedicato invece a un libro che si chiama Lo Zen e la cultura giapponese, appena ripubblicato da Adelphi. Purtroppo era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ma oggi c'è tantissimo sui giornali come ogni domenica. Grazie a Filippo Aureggi in regia per avermi tenuto nei tempi. Una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.